splende come fuori, sopra coperte e divani, lieve piacere ma non vero, che si distrugge tra le mani, mille colori, un pennello, tutto perfetto senza angoscia, pure lo spread mi dà sollievo, non penso neanche ad un impiego, cambio le forme a piacimento, luoghi infattati, immacolati, lande deserte profanate, tolgo disagio e non consenso, parlo con chi non è più vivo, luci che accecano il cuore, scopri che solo un secondo ti fa volare sopra il mondo. Senza uscita, soliti pianti imbarazzanti, stringimi a te e ai tuoi fianchi, cogli la vita in un momento, se vuoi gettare getta il vento, tutto sembrava lì brillare, neanche le luci a Natale, sono parole di conforto, tu ti ricordi senza sforzo, quando ti svegli di sobbalzo, solo ti accorgi